Cari amici, il sottoscritto Pietro Pancamo è lieto di annunciarvi che oggi gradito protagonista di questa nuova puntata è Andrea Borla, un bravo romanziere di Torino, il quale, subito dopo il breve stacco musicale che sta per iniziare, si presenterà a voi doviziosamente. Un saluto agli ascoltatori di Radio Big World. Sono Andrea Borla e sono uno scrittore. Generalmente questa affermazione è seguita in maniera quasi automatica da una domanda: cosa fai per vivere? Il sottinteso è che il mestiere di scrittore, o la malattia dello scrittore come preferisco chiamarla, non dà da vivere. E allora c'è chi fa l'oste, il cavadenti, il boia o altro, a seconda delle capacità o delle fortune di ognuno. Io faccio l'impiegato. Un tempo mi definivo un gasf. In questo mare di scrittori in cui galleggia l'Italia c'è la necessità di trovare un'etichetta per differenziarsi. Io avevo pensato a quella di giovane aspirante scrittore famoso, GASF appunto. Giovane lo ero a 20 anni e di tempo ne è passato. Aspirante non si capisce se è riferito a scrittore o a famoso. Ho da tempo abbandonato questa definizione, anche perché ogni volta che ci penso mi vengono in mente le parole di mia cugina Elisa. Cosa te ne frega di diventare famoso? Devi diventare ricco. E non ha tutti i torti. Certo, almeno da questo punto di vista, credo di aver sbagliato tutto. Considero ancora la scrittura come una forma di arte e il romanzo come la sua naturale espressione, almeno per le mie caratteristiche di scrittore, anche se, lo vedremo in seguito, molto devo ai racconti, questa forma di narrazione che consideriamo quasi di serie B. Ho sbagliato tutto perché per diventare ricco avrei dovuto fare il disonesto o il criminale, ma sono troppo impaurito dalla vita per andare contro le regole. O alla peggio avrei dovuto fare lo youtuber e filmarmi mentre gioco col computer, ma ai miei tempi certe cose non c'erano. Peccato perché adesso sono proprio gli youtuber a scrivere i libri. La maggior parte delle mie pubblicazioni vanno a braccetto con la casa editrice che più spesso mi ha supportato e sorretto nel corso degli anni, il Foglio Letterario di Piombino. Ho cominciato a pubblicare con Gordiano Lupi nel 2005 con il romanzo In prima persona, una panoramica su Torino e sui suoi spaccati sociali. Sei personaggi volutamente in cerca di autore che si inseguono tra amore, liti, atti di terrorismo in una capitale sabauda preolimpica, apparentemente sonnecchiosa e profondamente attiva. Il libro aveva un incipit che, in realtà, rappresenta perfettamente il modo che prediligo per presentare le mie storie. Il protagonista, parlando in prima persona, diceva: «Se dovessi raccontarlo a qualcuno, credo che comincerei proprio così». Un tono colloquiale, quasi una trasposizione scritta della lingua parlata. E in qualche modo questo si trova anche nelle mie pubblicazioni successive. Sempre per il Foglio ho curato una raccolta di racconti intitolata Pater Noster, 12 vittime per cui pregare, in cui i versi del Padre Nostro diventano i titoli di altrettanti racconti centrati su vittime e carnefici, che conducono il lettore da Padre Nostro a Che sei nei cieli e così via sino al conclusivo Amen. Una pubblicazione che non ha attinenza con i temi religiosi, se non per lo spunto, fondamentale per la nostra cultura oltre che per la nostra anima, che trae dalla preghiera simbolo del cristianesimo. Su temi simili si muove anche la raccolta successiva, il Decalogo, 10 racconti per violare i comandamenti di Dio, che rappresenta il seguito ideale di Paternoster e raccoglie i racconti ispirati ai 10 comandamenti. Nell'ottobre 2012 le edizioni Il Foglio pubblicano il romanzo Di cose giuste e di cose ingiuste. Il protagonista è Federico Lombardi, il padre di un bambino portatore di handicap. Molte sono le persone che aiutano Federico in questa condizione difficile di padre single. E tra loro troviamo anche Daniela, la bibliotecaria che va una volta alla settimana a casa di Federico per leggere delle storie al bambino. Daniela incontra il piccolo Claudio con lo spirito di chi vuole portare aiuto a una famiglia in una situazione di forte difficoltà. ma la vicinanza con lui e soprattutto con Federico la costringe ad affrontare i problemi di relazione che si porta dentro. Forse per deformazione professionale, ma più probabilmente per attitudine, Daniela vuole passare inosservata, vivere al margine evitando i riflettori. Questa condizione defilata la mette al riparo dalle proprie insicurezze, derivanti in primo luogo dall'incapacità di assumersi responsabilità e di affrontare la vita a viso aperto. La storia di Federico, Daniela e Claudio si intreccerà con quella del maresciallo Gorrasi, impegnato in un'indagine su un traffico di prostitute dai paesi dell'est. Molti sono i personaggi che hanno percorso le pagine dei miei romanzi, ma quelli a cui sono più legato sono senza dubbio Piero Scacchi e i suoi compagni di cella. Sono un gruppo molto variegato di criminali della peggior specie. Scacchi è in carcere per aver ucciso la moglie, il professore per omicidio e pedofilia, Carlos per traffico di droga. Sono la rappresentazione dei peggiori mali che il mondo può presentarci. Eppure, in una sorta di compensazione, sono chiamati a risolvere i casi delle persone che si rivolgono a loro dopo aver barcato le porte del carcere. Sono i protagonisti del mio romanzo Odio e di diversi racconti inseriti nelle raccolte Paternoster, Il Decalogo o in altre pubblicazioni. Le loro avventure sono raccontate in alcuni romanzi ancora custoditi nell'hard disk del mio PC. Una volta si tenevano gli inediti nel cassetto, oggi anche i luoghi dei nostri tesori sono diventati tecnologici. L'ultimo romanzo che ho pubblicato è uscito per Storiche Edizioni di Francesco Giubilei e si intitola Inganni e Ossessioni. È incentrato su Tommaso Vasile, un professore di scuola media superiore e ghostwriter in una grande casa editrice. La vita di Vasile sta andando a pezzi. Non sa dare un nome al sentimento che prova per le donne che gli ruotano attorno, non sa tracciare la linea tra affetti, passioni e ossessioni, non sa individuare gli inganni nascosti dietro le opportunità. E soprattutto non trova risposta alla domanda che cos'è l'amore a 40 anni, un po' come i personaggi di In prima persona che erano impegnati a rispondere all'analogo quesito che cos'è l'amore a 30 anni. È per questo che vuole abbandonare le sue attività senza sapere di preciso con cosa sostituirle. Cambiare tutto gli sembra l'unica soluzione. L'occasione gli viene offerta dal padre della sua ragazza, un politico piuttosto in vista che lo mette in contatto con un imprenditore. L'imprenditore ha bisogno di realizzare del materiale informativo su un impianto di riciclaggio di rifiuti. La comunicazione per chi vuole avviare un'attività del genere è fondamentale e Vasile è la persona adatta a cui affidare quell'incarico. Tuttavia, quello che potrebbe costituire un punto di svolta per il professore diventa in breve tempo l'inizio di una parabola discendente che lo investe come una frana. Mi piace pensare che questo sia il mio romanzo più ottimistico e che le scelte, seppur difficili e pagate sulla propria pelle da parte del protagonista, seguono una sorta di giustizia universale che pareggia il bene che si è fatto con gli atti negativi di cui ci si è macchiati. La sfida che si presenta a Tommaso Vasile lo pone di fronte a una grande opportunità, fare chiarezza sul modo in cui si appresta a vivere la mezza vita che gli è rimasta, scegliendo tra amore e ossessione, tra paura e risolutezza, tra connivenza e speranza di una rinascita inaspettata. Per un ingenuo come lui, questo è già molto. Chi volesse conoscere meglio i miei romanzi può navigare sul mio sito www.andreaborla.com o su quello delle case editrici che hanno pubblicato le mie opere, soprattutto Il Foglio Letterario e Storiche Edizioni. Oppure può entrare in una libreria e letteralmente rompere le scatole a chi è seduto dietro al bancone per farsene arrivare una copia. Non è difficile, anche se ci vuole un po' di buona volontà. Probabilmente è proprio questo che manca nel mondo, e non solo nel mondo editoriale, la buona volontà. Mettiamone un po' a fondo perduto, senza chiederci se e quanto servirà a cambiare le cose. Vedremo quali frutti porterà. Nel frattempo, cercate di stare bene. dopo questa autopresentazione, forse lievemente polemica, ma di certo assai pregnante e incisiva, Andrea Borla si appresta ora a leggerci qualcosa del suo ultimo romanzo, ovvero Inganni e ossessioni, dato alle stampe nel 2014 da Storica Edizioni. Quando Tommaso si trovò di fronte all'androne della scuola, notò con stupore la presenza del preside in piedi a pochi metri da lui. Non gli era mai capitato di vederlo lì a quell'ora del mattino. Quello di piantonare l'ingresso degli allievi era un compito che lasciava ben volentieri al vicepreside, mentre lui si limitava ad arrivare a scuola alla fine della prima ora. Il preside sembrava Mosè intento a dividere le acque. Il flusso degli allievi, infatti, si spezzava in due non appena intercettava la sua posizione, quasi che tutti sentissero il bisogno di marcare la distanza dal dirigente scolastico, temendo un suo scatto d'ira o una sua ritorsione immotivata. Tommaso si limitò a indirizzargli un cenno di saluto con il capo, mentre tentava di raggiungere la classe in cui aveva lezione. «Professor Vasile», si sentì chiamare. Il tentativo di sfuggirgli era miseramente fallito. «Preside», rispose avvicinandosi, «come mai qui questa mattina?» La battuta, che sapeva di rimprovero, colpì nel bersaglio. La smorfia che il preside gli indirizzò fu piuttosto eloquente. La frase di Vasile non gli era per niente piaciuta. «Non dovrebbe stupirsi», rispose il preside mentre si sistemava gli occhialini rotondi. «Una scuola si regge su una precisa suddivisione dei compiti, lei capisce? Generalmente mi occupo di altre questioni, ma questo non significa che ogni tanto non mi debba far vedere dagli allievi». Tommaso registrò la spiegazione senza scomporsi. Non credeva a quelle parole più di quanto non dava credito alle scuse di alcuni studenti chiamati alla cattedra per un'interrogazione, per cui, per i più fantasiosi motivi, non avevano potuto prepararsi. «Lei come sta?» chiese il preside. «Bene», rispose il professore meccanicamente. «Ho pensato a quello che mi ha detto l'altro giorno», proseguì il preside mentre spingeva cordialmente Tommaso da una parte per potergli parlare senza essere sentito dagli allievi. «Mi spiacerebbe molto non poter contare su di lei nei prossimi mesi. Se vuole sapere se ho preso la decisione definitiva, posso rassicurarla, non l'ho fatto, anche se penso impiegherò ancora poco tempo. Ma almeno l'ho convinta a pensarci su per un po'». Tommaso si trovò costretto ad annuire. Quel gesto era una sorta di ammissione di debolezza. Era come consentire all'avversario di segnare un punto a suo favore. Cercò pertanto un modo per riportare la situazione in equilibrio. «In realtà ho ancora un paio di cose da sistemare», rispose. «Ci sono valutazioni da effettuare, qualche pezzo del puzzle da incastrare e poi potrò inoltrare la mia domanda. La invito ancora una volta a rifletterci sopra. Prendere aspettativa è un suo diritto, lei capisce, e nessuno vuole toglierglielo o anche solo limitarlo». A Tommaso sfugge un sorriso. Quelle parole suonavano così diverse da quelle che aveva sentito pronunciare dal preside durante il loro precedente incontro. Probabilmente il dirigente voleva evitare il rischio di vedersi accusato di comportamento antisindacale nei confronti del personale della scuola. «Sei soltanto un burocrate spaventato. Ho cercato di affiancarla nella sua decisione», proseguì il preside. «È importante osservare i problemi da tutti i punti di vista prima di decidere. Molto spesso il conforto consente di...» Tommaso smise di ascoltare. Non voleva spendere altre energie per assimilare le parole che gli stava rivolgendo. Quel tipo di comportamento, così lontano dal suo modo di pensare e di agire, era tutt'altro che raro all'interno del loro mondo e proprio non riusciva a sopportarlo. Aveva assistito per anni a guerre consumate con lo scambio di lettere tra colleghi, lette durante il collegio docenti o consegnate al protocollo della scuola. Tutti cercavano di coprirsi le spalle e di difendersi rispettando la forma. Acquisire una posizione formalmente ineccepibile sembrava la principale preoccupazione degli insegnanti, oltre che il principale motivo, secondo lui, da cui derivava l'impossibilità di miglioramento della qualità della formazione in Italia. «Non si preoccupi, preside», disse interrompendo le frasi che il dirigente stava collegando le une alle altre con alcuni «lei capisce». «Ho molto apprezzato il suo contributo e i suoi consigli. Credo che faccia bene a preoccuparsi dell'immagine della scuola, anche se non penso che la mia decisione possa influenzare il modo in cui le famiglie e gli allievi guardano il nostro istituto». «Non si sottovaluti, professore. Ci sono segnali che, al di fuori di queste mura, vengono interpretati secondo logiche che noi non possiamo nemmeno immaginare. Sarà come dice lei, ma c'è un fatto. Non sono così indispensabile». Non ho mai pensato di esserlo, come invece fanno quotidianamente molti miei colleghi. Mi impegno nel mio lavoro, ma non credo di essere l'ago della bilancia di nulla. Il preside stava per ribattere, ma Tommaso non gliene diede il tempo. Nei prossimi giorni sarò nelle condizioni di prendere una decisione definitiva. Lei, ovviamente, sarà il primo a saperlo. Quell'ultima frase metteva la fine al discorso. Anche il preside se ne rese conto e non forzò la mano rivolgendogli ulteriori domande. Si limitò ad annuire e a salutare. Gli ricordò che la porta del suo ufficio era sempre aperta e gli augurò una buona giornata. «Cazzate!» pensò Tommaso mentre si allontanava. «L'unica cosa che ti interessa è non avere problemi. Da un certo punto di vista ti capisco, ne hai già avuti un bel po' ereditando una scuola con i nomi di due giovani morti scritti sui muri. Io non ti darò altre preoccupazioni. Quando te ne convincerai, mi lascerai finalmente in pace. È anche vero che sapevi benissimo qual era la situazione dell'istituto quando hai accettato l'incarico di dirigerlo. Credo che tu l'abbia fatto per i soldi e per null'altro, ma non puoi dire che qualcosa ti era stato tenuto nascosto. E poi, se me ne vado per qualche mese, non credo che ci sarà la sommossa delle famiglie che... «Ehi, Vasile!» lo chiamò una voce maschile. Tommaso si girò e si trovò di fronte a Marzano, il collega di filosofia. Non lo sopportava e la cosa era reciproca. Fece finta di ignorarlo, ma lui si avvicinò ancora di più. Poté osservare da vicino i capelli unti che avrebbero richiesto un'approfondita pulizia e intercettare l'alito maleodorante che precedeva il professore ovunque andasse. Si rese conto che avrebbe fatto volentieri a meno di entrambe le esperienze sensoriali. «Vasile!» lo chiamò nuovamente Marzano. «Non andartene così in fretta!» Rallentò il passo e consentì al collega di affiancarglisi. «È un po' che non facciamo quattro chiacchiere!» Tommaso accolse quell'affermazione con un'alzata di spalle. «Si dice che te la passi bene in questo periodo», affermò Marzano. «Ah sì?» Marzano annuì. «Se stai pensando di metterti in aspettativa fino alla fine dell'anno, vuol dire che non hai problemi economici». Tommaso non replicò. Non si stupì più di tanto che l'informazione si fosse già diffusa nella scuola. «Il lavoro con la casa editrice deve andare a gonfie vele». «Dovresti essere felice di non vedermi per qualche mese», ribatte Vasile. «O ti manca la mia compagnia?» «No, non mi manca, anche se tu mi piaci», rispose Marzano. «Sei un'inesauribile fonte di gossip qui nella scuola. Se te ne vai, avremo tutti molto meno di cui parlare». «Gossip su di me? Addirittura? Vuoi dire che hanno esaurito tutti gli argomenti? Se ti decidessi a sbatterti tagliente, saremmo tutti molto più contenti. Avremo di cosa parlare per un bel po'». «Mi spiace, ma la collega non è il mio tipo», si limitò a rispondere. «Infatti», confermò Marzano, «non credo che tu sia interessato alle colleghe. In giro si dice che ti scopri le madri degli allievi». Tommaso fu colpito da quella frase lapidaria e deliberatamente accusatoria. Il riferimento a Sara Ferri era palese. La sua relazione con la madre di Manuel era di dominio pubblico? Oppure era una deduzione a cui era arrivato Marzano in qualche modo e che adesso stava cercando di sbattergli in faccia per conoscere la sua reazione? Vasile fece di tutto per non mostrare il turbamento che le parole di Marzano gli avevano causato. Da un lato si sentiva violato nella sua privacy, mentre dall'altro sentiva di avere una responsabilità a cui non poteva sottrarsi. Doveva, in ogni modo, tutelare Sara. Per uscire dall'impasse, ricorse all'unica forma di difesa che gli parve adeguata alla situazione. L'attacco. «In giro si dice che cerchi di scoparti le allieve», ribatte Tommaso. «Come vedi, Marzano, ci sono almeno due cose che ci differenziano, l'età e il risultato». «Davvero spiritoso», commentò il collega. Ma se fossi nei tuoi panni, non penserei di essere tanto migliore di me. Approfittare di un lutto per consolare una preda non è un gesto molto cavalleresco. Tommaso fu sul punto di colpire Marzano con un pugno. Strinse la mano e si fermò per un attimo, giusto in tempo per bilanciare il corpo in vista del colpo da scagliare. Non gli importava delle conseguenze, quella era la miglior risposta che avrebbe voluto dare. Senza dire una parola, senza aggiungere una spiegazione, senza che si aspettasse un così repentino cambio di strategia da parte di Vasile. Un pugno, uno solo, in bocca o sul mento o sul naso, dove sarebbe riuscito a indirizzare la mano poca avvezza alle risse. Quando Marzano comprese che Vasile lo stava per aggredire, si irrigidì e fece un passo indietro, come per aumentare la distanza che li separava. La consapevolezza che Tommaso lo stesse per colpire gli percorse la mente, ma non fu in grado di improvvisare una benché minima difesa. Tommaso irrigidì il braccio e spostò il peso sulla gamba sinistra. Fu in quel momento che si sentì tirare indietro con forza. Girò la testa per capire da chi potesse venire quell'attacco improvviso e si ritrovò a pochi centimetri dal viso di Tagliente. Dal canto suo, Marzano fu veloce nell'approfittare di quel momentaneo disorientamento del suo aggressore. Senza dire una parola si allontanò mescolandosi agli allievi. «Cosa ti è preso, Vasile?» chiese Tagliente. «Sei diventato improvvisamente rosso in vito e ti sei girato verso Marzano come se lo volessi colpire». Tommaso si toccò le guance con una mano. Non le sentiva particolarmente calde, ma non aveva motivo di dubitare di quanto gli aveva appena detto la donna. «Non volevo compirlo», mentì. «Ma sai che Marzano riesce a tirar fuori il peggio dal suo prossimo?» «Purtroppo lo so», confermò la donna. «Cosa ti ha detto per farti arrabbiare in quel modo?» Tommaso fu sul punto di rispondere che gli aveva consigliato di sbattersela. Sì, aveva intenzione di usare esattamente quel verbo. Poi pensò che fosse meglio evitare di alzare un vespaio da cui nessuno avrebbe tratto giovamento. «Opinioni divergenti», rispose restando sul vago. «Credo che Marzano abbia opinioni divergenti con tutti, ma questo non è un buon motivo per prenderlo a pugni. Non avevo nessuna intenzione di malmenarlo», ripeté Tommaso. «Però, ora che mi ci fai pensare, si meriterebbe proprio una bella ripassata. Se tutti dovessero ragionare così, verrebbe pestato a sangue giorno dopo giorno. Credi che alla fine servirebbe a qualcosa?» «Non si può mai sapere», tagliò corto Tommaso mentre cercava di allontanarsi dalla donna. Era infatti riuscito a individuare nuovamente Marzano in mezzo agli allievi. Era in un angolo e stava parlando con Roberta, la ragazza di cui Antonio era innamorato. Il professore avrebbe voluto avvicinarsi per capire il tenore della conversazione. Da quella distanza non poteva sentire quasi nulla, se non affidandosi al linguaggio del corpo. Gli pareva di intuire che la ragazza desse segni di nervosismo. Saltellava da un piede all'altro e aveva la schiena irrigidita. Marzano non sembrava turbato, anzi sfoderava un sorriso piuttosto viscido che lo contraddistingueva quando era a contatto con le allieve. «Se mi vuoi scusare», disse tentando di svincolarsi dalla presenza di Tagliente, «veramente volevo dirti che una di queste sere pensavo di andare al cinema e...» Tommaso non ebbe difficoltà a capire dove stava andando a parare la donna. «Purtroppo sono occupato», disse seccamente. «Potresti almeno farmi finire la frase prima di rispondere di no?» Tommaso si girò verso di lei con uno scatto. Aveva visto Marzano avvicinarsi a Roberta e prenderla per il braccio. Non sapeva come interpretare quel gesto, ma sentiva l'urgenza di avvicinarsi per capire meglio la situazione. E invece Tagliente gli stava facendo perdere del tempo prezioso. Non sapeva perché si stesse prendendo a cuore quella ragazza. Forse era semplicemente una conseguenza del disprezzo che provava per Marzano. Forse c'era un collegamento con il compito che Sara gli aveva affidato, stare il più vicino possibile all'amico di suo figlio Manuel. E Antonio era innamorato di Roberta. Si girò e si rese conto che Tagliente era ancora in attesa di una risposta, che continuava a osservarlo con occhi di fuoco. «Non posso uscire», disse telegrafico. Poi si allontanò lungo il corridoio. «E va bene, basta dirlo», sentì dire la donna. «Ti stavo soltanto invitando fuori. Vuoi prendere anche me a pugni?» Vasile ignorò il commento e proseguì divagando fra gli allievi senza mai perdere di vista il suo obiettivo. Quando finalmente fu a pochi passi da Marzano, il professore di filosofia si accorse della sua presenza e gli gettò uno sguardo duro e di sfida. Un ragazzo si avvicinò a Roberta e la trasse a sé. Tommaso non ebbe bisogno di vederlo in volto per scoprire l'identità del giovane. La scritta «In Flames» sul retro della maglietta nera non poteva che ricondurre ad Antonio. Il ragazzo disse qualcosa a Roberta e le fece cenno di seguirlo, come se fossero attesi da altri compagni. Tommaso si convinse che quell'azione fosse un puro diversivo per sottrarre la ragazza all'attenzione del professore. Rallentò quindi il passo e cambiò leggermente direzione. Lasciò il passo ai due allievi e si mise a camminare vicino a loro. Gettò uno sguardo pieno di rimprovero e di disgusto a Marzano prima di dargli le spalle. Era certo che il suo disprezzo non avrebbe avuto nessuna positiva conseguenza sulla condotta del collega. Tommaso seguì i due ragazzi per qualche metro. Vide Antonio rivolgere alcune frasi a Roberta, ma non riuscì a sentire cosa i due si stavano dicendo. Lo vide avvicinarsi e poggiare timidamente la mano sulla schiena della ragazza. Il contatto durò pochi istanti, giusto al tempo perché gli occhi del professore registrassero un cortese gesto di Roberto, che si scostava di qualche centimetro dal compagno, giusto il necessario per recuperare la propria autonomia. Antonio mise il braccio lungo il corpo e se lo portò dietro, irrigidito, per alcuni passi. Poi alzò una mano in segno di saluto e si infilò nel corridoio che si apriva alla sua destra, imboccandolo con la risoluzione di chi ha finalmente trovato la via d'uscita tanto agognata. Roberta ricambiò il saluto. Tommaso riuscì a distinguere il movimento delle sue labbra che pronunciavano la parola «grazie». Il professore sorrise. «Non so ancora cosa sia l'amore a 40 anni», ammise, «ma ricordo con nostalgia quello dei 15». Poi abbassò lo sguardo ed entrò nella classe che lo aspettava per 2 ore di lezione. Allora, per oggi è tutto, cari amici. A risentirci alla prossima puntata con un nuovo autore e nuove letture.